8 agosto 2025. Accadeva quel giorno. Tutti i mondi. Tutti i giorni. Puntina anniversari e accadimenti. 1974 Richard Nixon annuncia le sue dimissioni dalla presidenza degli Stati Uniti, in seguito allo scandalo Watergate. È il primo presidente USA a dimettersi. 1945 L'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone, invadendo la Manciuria controllata dai giapponesi, un passo decisivo verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Stella che brilla santi del giorno. San Domenico di Guzmán, fondatore dell'Ordine dei Predicatori, Domenicani, grande promotore dell'evangelizzazione e della cultura cristiana. San Ciriaco di Roma, martire cristiano, ricordato per la sua forza d'animo durante le persecuzioni di Diocleziano. Faccina con monocolo curiosità. Il film The Prestige di Christopher Nolan debutta in alcune rassegne estive italiane nel 2007. Un capolavoro di illusionismo, rivalità e inganni, ambientato nell'Inghilterra vittoriana. L'8 agosto 2008, alle ore 8 e 8 minuti, si aprono ufficialmente i Giochi Olimpici di Pechino, evento simbolicamente carico di significato per la cultura cinese, dove l'8 è numero di prosperità. Fumetto citazione del giorno. Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. George Orwell, posta in uscita. Vuoi restare sempre aggiornato? Iscriviti alla newsletter Accadeva quel giorno.